Ça peut passer maintenant. Ouais, ben, que le signal est reconnu. Ouais, ben, probablement qu'il y avait une session unique. Oh, padre. Capito, vabbè. Perché io sono ignorante, che non capisco i segnali, capito? E vabbè, tu e questo qua, e Danilo Snoopy, adesso mi avete rotto veramente i coglioni, va bene? Domani, vabbè, domani è domenica, vaffanapoli pure a me. Lunedì vedrai, qua si fa piazza pulita, capito? Tu non sei mai, no? Cristian non è mai, poverino, non è mai, capito? Meno male che l'ho detto a padre, gli ha tolto il baracchino. Adesso vediamo stasera quando sei da Stefano, quello che ti succede. Poi, io devo schiacciare, ma anche schiacci tu, capito? Così è notte. Perché ieri notte non c'è casino? Perché non c'eri tu? Ci sei tu, c'è sempre il bordello. Poi non esco e dovete rompermi l'anima al baracchino. Poi stasera quando si sente parlare con Gigi ti metto portante e poi praticamente fa quando ti rompe le balle, eh? Se io sono froscio, cosa cazzo vuoi da me, eh? Ma cosa credi che io sia come Savedio, eh? Quell'altro magone. Poi non volete rompermi le balle, basta dire, Facco, ci vogliamo rompere i coglioni. Se io sono qui, mi state rompendo talmente le scatole, capito? Poi inutile che vai da Antonio Riserva a dire Antonio aiutami a mettere l'antenna, perché se Antonio ti aiuta io rompo il culo, certo. O quando parli di cose serie o quando parli di cavolate, per carità, va. Io sono nervoso perché non posso uscire fuori e dovremmo non rompere più il coglione al baracchino. Me la rompevano al telefono. E le scatole, Facone così, Facone così.